l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e soprattutto buon Natale da me, da tutto lo staff dell'Altra Europa. Siamo qua anche oggi con il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con il network Euronet, www.euronet.eu, questa rete di radio europee che tentano di raccontare l'Europa con tante voci diverse. Puntata natalizia e quindi puntata dedicata appunto a questa giornata particolare, e abbiamo deciso anche noi di dare un taglio festoso. Il nostro infatti sarà un viaggio nell'Europa del Grande Nord. Andremo al freddo oggi, sì, là dove la neve è visione quotidiana 200 giorni all'anno. Vi racconteremo tante storie di italiani che hanno scelto di andare a vivere là e di alcuni corrispondenti invece, giornalisti locali, ma che conoscono bene la nostra lingua, che ci racconteranno quelle che sono le tradizioni, quella che è la quotidianità in questo nord che comunque è vicino, è un'altra Europa per davvero, e oggi la celebriamo. Partiamo quindi dalla Lapponia. Questo è un canto tradizionale della popolazione Sami, e proprio i Sami, i Lapponi, i pastori che vivono allevando le renne, sono i vicini di casa di Luisa Troianis, una toscana che da diversi anni vive lassù, siamo in Svezia, nella regione della Härjedalen. Lei è una tour operator in questo angolo anche sconosciuto appunto della Svezia, e Luisa, che abbiamo ospitato qualche mese fa qui in studio, oggi è in collegamento in questo giorno di Natale direttamente da casa sua. Ciao Luisa, buon Natale! Ciao Federico, ciao, freddissimo! Allora, aspetta, perché se voi dite freddissimo noi ci preoccupiamo. Cosa vuol dire? Quanti gradi ci sono più o meno? Stamattina sono esattamente meno 32. No, stai scherzando? No, non sto scherzando affatto. È meno 32. E quando sei stata con noi in studio ci hai raccontato che molte volte la tua colazione inizia con tu che vai a trapanare il ghiaccio, fai un buco, vai a pescare un pesce. anche a Natale si fa? No, ci riposiamo a Natale, dai, ci riposiamo, anche perché a queste temperature è difficile stare fuori, o perlomeno stare per lungo tempo fermi, come in questo caso andare a pescare. E quindi no, proprio facciamo delle belle cose anche per Natale, però insomma più tranquille. Ci sono tradizioni particolari appunto legate a questi giorni di festa? Sì, guarda, bello, tra l'altro io rientro da qua, ti dicevo appunto freddissimo, perché rientro proprio adesso, una bella esperienza. E in Svezia insomma la tradizione del Natale certo non è sentita come la nostra, nel senso che dal punto di vista religioso, ma è comunque sempre un momento per stare tutti insieme e per insomma incontrarsi dopo tutto l'anno, che magari uno per vari motivi, no, si trova da una parte a un'altra, un po' come succede da noi. È una bella tradizione che loro hanno per il giorno di Natale, è appunto la celebrazione della Santa Messa. Però questo avviene in maniera particolare, giustamente siamo in Lapponia, come può essere, no? Però stamattina volevo provare, perché a dire la verità ci potevo provare anche gli altri anni, però insomma questo fatto di alzarmi presto e di andare slitta, insomma ho detto vabbè, non me la sentivo, però quest'anno ho detto va bene, ci vado. E quindi alle 6 di mattina mi sono preparata, perché almeno ci vuole un'ora per prepararsi, perché appunto ti devi vestire in un certo modo, ti metti praticamente delle pellicce, delle vecchie pellicce di una volta di pelo, insomma di lupo, sì. e con un colbacco praticamente, e poi parti in slitta con le slitte trainate dai cavalli, e facciamo circa un 12 chilometri lungo appunto la strada di Tandalen, fino ad arrivare al paese dove si celebra la Santa Messa. E quindi è tutto un viaggio particolare, perché un po' vuoi il freddo, un po' insomma anche un po' l'emozione, perché insomma quello che vedi, il paesaggio è meraviglioso, insomma fatichi un po', una toscana come me o comunque insomma noi italiani fatichiamo un po' a vedere questo aspetto del Natale alle 7 di mattina su una slitta. Certo, ma Luisa, tu ti stai un po' abituando, ormai sono diversi anni che sei lì, alla loro vita e al loro stile, insomma, e loro si sono abituati a te, cioè nel senso il fatto di avere un'italiana molto lontana anche dai loro canoni estetici, si accorgono della tua presenza o ormai fai parte anche tu della loro cultura? No, diciamo che no, forse io per loro rappresento un po' l'aspetto folcloristico, se vogliamo, ma lo sai perché? Per un motivo molto semplice, perché io sono molto curiosa e quindi tutto quello che per loro è normale, per me invece, insomma, sono sempre entusiasta, per cui anche per delle cose che ti posso dire, ad esempio ieri sono andata nelle cucine qui della zona di amici che hanno un hotel, sì, e stavano facendo dei biscotti, no, allo zenzero. Io quindi ero lì che volevo vedere, no, che cosa usate, che cosa mettete, bellissimo, per me era tutto bello. E questi, no, che magari erano lì da 10 ore che facevano questi biscotti, mi facevano, Luisa, renditi conto che per noi, no, è così, è un po' tutte le cose, sono ricca di entusiasmo per tutto. È un po' come noi, no, quando vediamo uno straniero che viene, che ne so, dalle mie parti in Toscana, a vedere come si produce l'olio o anche altre cose, per cui sì, sono un elemento folcloristico senz'altro. Luisa, però, tu, no, sono abbastanza integrata, sì. Tu racconti quotidianamente le tue avventure sulle pagine in Facebook, stiamo già mettendo tutti i vari link relativi alla tua attività sulle nostre pagine in modo che gli ascoltatori, insomma, possano trovarti facilmente. E ieri forse hai vissuto un'altra avventura particolare sulle tracce del bue muschiato, così scrivi, cos'è successo? Sì, no, questa è una cosa molto bella in effetti, e tra le attività che quest'anno, insomma, introduco c'era senz'altro questo incontro con il bue muschiato, e la regione dell'Aretale è già dal 71 che si occupa della, tu sai che insomma sono quasi in via di estinzione perché sono, se vogliamo, i parenti dei mammut, gli ultimi, sì, testimoni dell'era glaciale di 10.000 anni fa, e quindi insomma era importante preservarlo, e nell'area ce ne sono ben 7. Quest'anno per meglio monitorarli, perché fino adesso venivano, si spostavano, quindi era difficile, comunque sempre vengono i veterinari da Soccorma a controllarli, però è molto difficile sempre individuarli nelle zone che si spostano. Quindi quest'anno l'hanno riunite nella riserva naturale del Rogen, che ricordo che è una riserva naturale che sono 500 km di estensione di pura terra selvaggia, veramente, ci sono ancora animali selvatici, ancora ci sono zone che l'uomo non ha raggiunto. E proprio qui appunto ieri un signore locale mi dice: guarda Luisa, dice, vieni comunque tu a vedere, e l'appuntamento appunto era la sera. Io, che da buona italiana, ho detto: ma che siete impazziti, di notte a queste temperature andare a vedere il bue muschiato, cioè voi capite, cioè, che cosa vedo, no? Mi preoccupavo. E questo signore dice: no, va bene, dice Luisa, guarda, abbi fede, abbi fiducia. E quindi siamo andati da casa mia alla riserva, all'incirca un 25 chilometri. Sì. Arriviamo in questo posto che è un museo, dove c'è un signore, insomma, che ti introduce un po' alla storia del bue muschiato. Dopodiché io poi non capivo nulla perché parlavano tutti in svedese, meno male un po' la guida parlava un po' in inglese, e dico: ma ora che facciamo? Dice: guarda, se tu fidati, ti segui noi con la macchina. E va bene, quindi ho seguito loro con la macchina, abbiamo fatto circa un 15 minuti di macchina in mezzo alla foresta. Scusa Luisa, scusa, visto che sei in macchina, ti fermo un attimo, diamo... L'altra Europa. Continua questa puntata speciale dell'Altra Europa, tutta dedicata al grande nord del nostro continente. Siamo in collegamento con Luisa Troianis, il suo sito www.redfoxadventure.com. Lei è una tour operator, vive in questa regione isolata della Svezia, organizza escursioni per i turisti e ci sta raccontando la vigilia di Natale particolare che ha vissuto insieme al bue muschiato. E quindi Luisa, ha inseguito queste guide sulle tracce del bue muschiato? E poi cos'è accaduto? Niente, appunto ti dicevo che facciamo circa un 15 minuti di macchina fino a che approdiamo in un posto dove non c'era assolutamente nulla, in mezzo alla foresta, non c'era una luce, c'era solo la luna piena. E questo signore aveva semplicemente una piccola torcia, piccolissima, e dice: vabbè, seguitemi. Quindi scendiamo e facciamo circa un 400-500 metri a piedi, a meno 32 circa poteva essere, e praticamente siamo arrivati in una specie di era come una specie di recinto, sì, non saprei come definirlo, in mezzo al bosco. E dopo lui si ferma, prende una piccola torcia, apre un cancello e comincia a dare, ci sono delle mangiatoie, comincia a mettere delle mangiatoie del cibo per questi animali, poi un religioso silenzio, tutti zitti, si vede piano piano appaiono dalla foresta, si muovono lentamente e arrivano questi animali enormi e giganti che si avvicinano lentamente con i piccoli. Guarda, è una cosa meravigliosa che noi stavamo a guardare così a bocca aperta, perché uscivano dalla foresta e sembravano animali di altri tempi, no? Si sembrava quasi di vedere dei troll, degli elfi, perché poi tutto nella penombra della luna piena, con questi alberi carichi di neve, stracarichi di questa bellezza infinita, con questo luccichio. Guarda, è veramente una cosa, io non credevo, non pensavo, non... perché dico di notte, insomma, è assurdo, ma invece devo dire che è stato uno spettacolo molto molto bello. Insomma, hai tutta la nostra invidia. Grazie davvero, Luisa. Ricordiamo tutti i link per conoscerti meglio, li abbiamo pubblicati sulle nostre pagine in Facebook. Buon Natale, stai al caldo, mi raccomando. Grazie Federico, buon Natale a tutti, un bacio. Ciao. Un bacione. Ciao bello, ciao. Europost-it. Dormire al ghiaccio. Una vacanza alternativa si può fare soggiornando in un hotel di ghiaccio. Tra tutti gli hotel di questo genere, il più grande e il più gettonato, anche secondo la classifica di TripAdvisor, sembra essere l'Ice Hotel, che si trova in Lapponia. Un albergo fatto di neve e ghiaccio, con camere dotate di tutti i comfort, nonostante i 5 gradi sotto zero. Questi sono i nostri Europost-it, le nostre dritte, le nostre segnalazioni che anche voi ci potete suggerire all'indirizzo l'altraeuropa@radio24.it. Vi ricordo anche che le puntate le potete scaricare e riascoltare dal nostro sito radio24.it, mentre le pagine ufficiali in Facebook che aggiorniamo in diretta sono in facebook.com/l'altraeuropa. Abbandoniamo la Lapponia e andiamo in Islanda, e con noi c'è Tora Arnorsdottir, giornalista, una delle giornaliste più famose della TV nazionale islandese. L'abbiamo già conosciuta qui all'Altra Europa e l'abbiamo convocata per scoprire com'è il Natale lassù in Islanda. Ciao Tora, buon Natale! Ciao, ciao. Anche a te, buon Natale! Come stai? Sei in vacanza in questi giorni o...? Sì, questi tre giorni, meno male. Allora, quest'estate mi ricordo che quando ti abbiamo intervistata eri in campeggio. Sì. Ora no, cioè non è una temperatura adatta da campeggio, spero. No, già. Dicembre, questo dicembre è stato freddo, siamo sotto zero. La cosa buona è che abbiamo la neve di Natale, così almeno è bello. È bello, sì, insomma. Ma come viene vissuto in Islanda il Natale? È una festa sentita? Sono comunque giorni importanti? C'è un sentimento comune o è solo una piccola vacanza? No, è veramente... Qui in Islanda il Natale è una grande festa. E da noi... Cioè, il 23 si mangia, so che non suona bene, una razza fermentata che ha un odore fortissimo, cioè anche il gusto. Questo non è per straniere da mangiare, ti dico. E poi il 24, sì, che vuol dire ieri, era, sì, il vero giorno di Natale. E lì ci sono le festività di Natale. Così ieri sera verso le 6... Comincia il Natale, la famiglia si mette a tavola con vestito bello, sai, cioè, abito di domenica, diciamo. Certo. Si mangia, prima si mangiava soprattutto, sai, coscia d'agnello, pure costata di maiale affumicata, cose così. Adesso c'è più varietà di cibo, diciamo, cioè pernice bianca oppure qualcosa di esotico. Un kangaroo, come si chiama in italiano. Quindi insomma la tradizione si è allargata un po', diciamo che il menù, sì, il sì, menù sì, è molto più vario. Okay. E poi oggi, che da voi in Italia è il giorno di Natale, la famiglia più grande si riunisce, si vede, cioè, sì, i nonni con tutti i bimbi, i nipotini, così. E quasi tutti mangiano, allora, carne d'agnello affumicata, che che è una tradizione islandese veramente sì. buona. Però senti, cioè, che noi mangiamo tanta carne, forse si vuole con questo freddo. Certo, aiuta, vero, a riscaldarsi. E poi non dimentichiamo, cioè, i regali, che ovviamente per i bambini sono molto importanti. Quelli apriamo la sera di 24. Sì, ok, quindi questa è la tradizione. Tora, ma al di là delle tradizioni, al di là di queste giornate di Natale, cosa sta succedendo in questo periodo in Islanda? È un periodo tranquillo? È passata un po' la burrasca che ha colpito la vostra nazione nei mesi passati? Non so bene cosa dirti. Direi di sì, che stiamo andando su. Però c'è, lo so che in Italia la politica è veramente caotica. Abbastanza. Ma è stata anche qui, veramente, anche se c'è ancora lo stesso governo, c'è stato un caos lì al Parlamento che non abbiamo, direi, mai visto prima, perché ovviamente è difficile quando bisogna tagliare. Ma devo dire, cioè, io quando vado in giro, cioè, nei negozi, dico, vabbè, senti, cioè, non può essere così male se tutti possono essere lì a comprare un sacco di cose, regali, cibo. Ovviamente, come sempre è stato, ci sono delle persone che hanno bisogno di un po' d'aiuto, sì. Ma io sono positiva, penso che abbiamo passato le cose più brutte. Il momento, il periodo peggiore, adesso insomma c'è ripresa nell'aria. E Tora, quest'anno anche è stato nominato un sindaco particolare lì a Reykjavik, vero? Un uomo di spettacolo, un comico. Come sta lavorando? Ma senti, lui non è stato peggiore di nessun altro. Almeno ci fa ridere ogni tanto. Insomma, un'ottima prospettiva. Grazie davvero, Tora, e buone feste davvero a te e a tutta la tua famiglia. Ciao, grazie. Ciao. Anche a voi. Ciao, ciao. Europost-it. Circolando sul web. Per tutti gli amanti delle terre dei due circoli e dei due poli, dove c'è il ghiaccio, il sole a mezzanotte, le notti polari e le aurore boreali, c'è un sito internet che raccoglie notizie e informazioni. Per scoprire l'ambiente, il territorio, la natura e le tradizioni delle genti che vivono nei due circoli polari, c'è il sito circolopolare.com. L'altra Europa, puntata natalizia, puntata rivolta alla Scandinavia e non solo. Siamo nel nord del nostro continente e ci andiamo con tanti italiani che hanno scelto di andare lì a vivere. Bellissima la prossima storia, la storia di Luca Roncoroni, di Villa Guardia, in provincia di Como. A 38 anni è un architetto con una laurea presa al Politecnico e da diversi anni vive in Norvegia, in questo periodo in particolare a Drobak, che è un piccolo paese su un fiordo, e sì, insomma, è uno dei massimi esperti al mondo di architettura col ghiaccio e con la neve. Sì, la sua materia prima, quello con la quale lui costruisce, proprio questo, il ghiaccio e la neve. E Luca è qua con noi. Ciao Luca, buon Natale. Ciao Federico, auguri, buon Natale anche a voi. Non oso immaginare il pupazzo di neve che puoi aver realizzato nel tuo cortile. Sì, ci siamo un po' divertiti. Adesso finalmente è arrivato un po' di neve, perché ha fatto talmente tanto freddo che c'è stato un po' di carenza di materia prima, però piano piano sta arrivando. Luca, la tua è una storia particolare, una storia che inizia con l'Erasmus. Hai conosciuto lì la Norvegia, giusto? Grazie a questa esperienza, esatto, universitaria. Esatto, sì. Ed è stato un po' un caso, perché io volevo fare l'Erasmus in Scandinavia, quindi sì, rimaniamo nel vostro tema, però è stato un caso che sia capitata la Norvegia, avrebbe potuto essere la Svezia o l'Islanda, e quindi sono arrivato qui per caso e poi mi è piaciuto, e adesso ormai sono abbastanza fisso qua. Ma hai scelto la Norvegia per caso, e lì in Norvegia per caso hai anche scoperto la neve, il ghiaccio come materiale plasmabile, esatto, diciamo. Esatto. Infatti nell'ultimo decennio, almeno da quando sono venuto qui, il caso è stato uno degli elementi principali. Infatti proprio quando ero qui a studiare architettura ho partecipato a un seminario per studenti di arte e architettura, in cui si lavorava in un, in una zona montana norvegese in cui si lavorava soprattutto con la neve per fare, diciamo, architettura del paesaggio o arte paesaggistica. E da lì poi è stata una successione di eventi, ma a dire vero poco pianificati, più che altro un passaparola, un conoscere qualcuno che conosce qualcuno, e da lì in poi è diventato una passione più forte, poi è diventato un lavoro, poi c'è stata qualche pausa e adesso sta ritornando ancora un lavoro più o meno a tempo pieno. E Luca, diamo al volo il tuo sito, che è www.lra.no, che abbiamo già pubblicato anche sulle nostre pagine in Facebook. L'altra Europa. Ancora buon Natale da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, oggi un appuntamento particolare, un appuntamento speciale, stiamo viaggiando nel grande nord con tante voci che arrivano dal freddo ma anche tanto caldo, perché comunque sono regioni dove si riscoprono relazioni diverse, più profonde, e si riconquista anche il valore del tempo e dello spazio, quindi voci che trasmettono anche tanta serenità. E in diretta da Drobak, siamo in Norvegia, con noi c'è Luca Roncoroni, ci sta raccontando della sua attività, potete conoscerlo meglio dal sito www.lra.no. Lui è un ice designer, un architetto del ghiaccio, ha costruito alberghi, ha costruito chiese, ha fatto lavori bellissimi. Però Luca, non è solo il ghiaccio che ti ha mantenuto lì in Norvegia, tu cercavi altro, vero? E lì forse l'hai trovato? Esatto, diciamo che il ghiaccio è stato un bonus, uno dei motivi principali, forse il motivo principale è stato un po' una sensazione che ho avuto fin dall'inizio per come sono qui le persone, com'è la mentalità, com'è la loro cultura. Io ero stato un po' messo in guardia da amici o conoscenti italiani per il solito, diciamo, lo stereotipo di cui si parla molto nel sud Europa, del fatto che siano freddi gli scandinavi o i norvegesi, e quindi sono arrivato qua un po' titubante, però mi sono fin da subito ho trovato persone molto calorose, amici che posso veramente considerare degli amici veri, e uno stile di vita, una scansione del tempo che è totalmente diversa da perlomeno dalle zone in cui arrivo io da cui arrivo in Italia, certo. In cui sono cresciuto, quindi qui i tempi sono un po' più rilassati, e poi anche lo spazio fisico, diciamo, la natura, sono talmente vasti e talmente poco, diciamo, poco sfruttati, poco contaminati, che si hanno delle esperienze davvero diverse rispetto a quelle che si possono avere nel sud dell'Europa, certo. O nel centro dell'Europa. E tu comunque ti sei immerso a 360 gradi in questa cultura, tra l'altro per vari motivi, ma motivi tuoi, motivi personali, al top della carriera ti sei preso una pausa, ti sei messo tra parentesi e hai detto alte, voglio un attimo essere io il padrone dei miei tempi, dei miei spazi. E hai fatto una scelta, quella di cambiare lavoro, appunto per un periodo, sì. E facendo il maestro d'asilo, ma per caso credo. Esatto, anche questo per caso, per un volantino al supermercatino locale. Sì. Un giorno ero a fare la spesa e stavo ero un po', diciamo, tra lavori, quindi ero abbastanza libero, e per caso ho letto questo volantino. In precedenza avevo avuto un'esperienza lavorare con i bambini in Perù, in un centro per bambini lavoratori sulle montagne peruviane. E quindi ero abbastanza, diciamo, aperto e predisposto al fatto di provare a fare qualcosa con i bambini, che sono comunque molto aperti e flessibili anche mentalmente. E quindi anche questa volta per caso ho detto ma sì, proviamo. E quello che doveva essere magari un lavoretto così per un corto periodo si è protratto per quasi 2 anni, e adesso però dopo l'estate ho deciso di piano piano ritornare al mio lavoro di architettura del ghiaccio, e magari anche qualche, diciamo, architettura più convenzionale, portandomi comunque un bagaglio, secondo me, importante che ho acquisito all'asilo qua. Ma lì culturalmente è normale prendersi comunque delle pause, dei periodi sabbatici, mettersi in gioco anche in altri ambiti? Diciamo che qua è abbastanza... È abbastanza comune prendersi delle pause, sì. Che siano per stare con i figli o fare qualcosa con la famiglia, per un viaggio, per provare a fare un altro lavoro. C'è gente che magari prende un anno di pausa da un lavoro d'ufficio per provare ad aprire una galleria d'arte piuttosto che un piccolo baretto. Magari non è così normale saltare da due realtà così diverse da quella dell'architettura di ghiaccio che l'asilo. Già è un lavoro particolare per passare poi all'asilo comunque. Esatto, però comunque qua c'è quella possibilità, quel lusso, diciamo, di poter, ci si può prendere il lusso di prendere qualche rischio in più. E quindi anche quello secondo me è una cosa positiva. Beh, insomma, visto che mi piace essere un po'. Mi sembra che ci sia la possibilità di osare, anche di scegliere in parte, quindi credo, esatto, che, insomma, esatto. Sono... e quindi la possibilità di sfruttare di più il caso di cui abbiamo parlato un po', certo, adesso, di lasciare fare un po' al caso, certo. Non sempre è così facile, però qui fortunatamente c'è quella possibilità anche dal punto di vista pratico. Luca, non svegliamo in anticipo i tuoi prossimi progetti perché li vorremmo raccontare in diretta qui dall'altra Europa, in bocca al lupo però, perché sono progetti assolutamente interessanti. Ricordiamo www.lra.no, ma stiamo pubblicando già anche delle foto delle tue opere nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Luca e buon Natale. Grazie. Buon Natale a tutti e grazie per la telefonata. A presto, ciao, ciao, ciao. A presto, ciao, ciao. Europost-it. L'arte di sbagliare il regalo. I migliori, o meglio i peggiori, a comprare i regali di Natale sono gli italiani. Lo rileva una ricerca realizzata sull'Europa da un'agenzia inglese. La media europea di insoddisfazione rispetto ai regali ricevuti è del 28%, mentre si collocano agli estremi opposti i tedeschi, insoddisfatti solo all'8%, e gli italiani, non contenti dei doni ricevuti, nel 52% dei casi. L'altra Europa, speciale Natale, questo speciale continua andando a conoscere tante storie di italiani all'estero, ma sono italiani che hanno scelto un estero particolarmente freddo, può sembrare una scelta strana, una scelta coraggiosa, però sentite, insomma, ci si abitua alle temperature più basse. È vero Gabriele, ci si abitua a queste temperature? Sì, buongiorno, ci si abitua, qui oggi fa abbastanza freddo, insomma siamo sempre sotto zero ormai dall'inizio di dicembre in Svezia, però ci si abitua appunto perché il freddo è molto più secco di quello che eravamo abituati in Veneto, noi in Italia, in Nord Italia, quindi si sta bene. E questa è una parola di meteorologo, tra l'altro. Ciao Gabriele, buon Natale intanto e grazie per aver accettato il nostro invito. Gabriele e Formentini, insieme alla compagna, diamo buon Natale anche a Silvia Mainardi. Ciao Silvia. Buongiorno a tutti, buon Natale anche a voi. Siamo in Svezia, in particolare in una cittadina che si chiama Östergötland, l'ho pronunciata bene, non credo, Gabriele? La regione si chiama Östergötland, ma la città si chiama Norrköping. Purtroppo è capitato con un nome piuttosto difficile, con tutti i suoni più strani svedesi. Siamo in Svezia, lì prende corpo la vostra storia che tra l'altro raccontate da due anni in un blog molto bello, molto frequentato, oneawaytosweden.blogspot.com. abbiamo già pubblicato in link nella nostra pagina in Facebook. Gabriele, come nasce la vostra storia, come siete arrivati e perché siete arrivati in Svezia? Sì, noi siamo arrivati ormai un anno e mezzo fa, quindi diciamo non tanto, però partendo da Padova, dal Veneto, quindi ci siamo arrivati non immediatamente, nel senso che eravamo alcuni mesi o anche un anno che avevamo preparato un po' la nostra, tra virgolette, fuga, e quindi siamo passati da vari paesi esteri fuori Europa per poi arrivare casualmente alla fine in Svezia, un po' perché Silvia si era appena specializzata in medicina interna, mentre io avevo il mio lavoro da meteorologo, però appunto un po' per le insoddisfazioni del lavoro e un po' perché per la Silvia appunto trovare un lavoro da specialista non era così semplice in Italia, e abbiamo deciso di provare la via dell'estero. Quindi poi casualmente, con le conoscenze, incontrando persone, così si viene a sapere di realtà diverse, e ci avevamo iniziati a informarci. Abbiamo fatto un primo viaggio esplorativo a gennaio, appunto per valutare quanto freddo faceva, perché ovviamente vivi un po' di sentito dire quando non conosci un paese. e da lì la Silvia praticamente ha avuto il lavoro subito al primo colloquio, perché come infatti, magari lei potrà spiegare meglio. Scusa, Silvia, ma è vero o quello che racconti nel sito o è una leggenda metropolitana? Hai trovato lavoro grazie a una mail dopo un quarto d'ora? No, è tutto vero. Ho scritto una mail per chiedere informazioni a quello che sarebbe diventato il mio futuro capo qui in ospedale ed ero ancora seduta lì al computer, stavo guardando altre cose e mi è arrivata la risposta dopo 15 minuti, non ci credevo nemmeno, mi sembrava surreale. E lì mi invitavano per un colloquio, noi siamo poi partiti dopo 2 mesi appunto, questo gennaio del 2009, il colloquio è andato molto bene, sia per me che per Gabriele, e così è iniziata la nostra avventura. Gabriele, ma questo grande nord, questa Europa del nord che attrae sempre più italiani, cosa offre? Offre davvero delle possibilità in più? Quando ci vivi poi ti accorgi che appunto ci sono diversi vantaggi. Ovviamente quello che io consiglio, da quando abbiamo aperto un po' il blog, chiaramente ci arrivano un sacco di mail che ci chiedono ma anch'io vorrei venire, ma qua, ma là. E quindi il mio consiglio prima è la Svezia non è per tutti, e in genere il Grande Nord non è per tutti, perché non è come vivere in Italia. Quindi bisogna abituarsi a una vita diversa, abitudini diverse, a ritmi, anche magari cose banali, però ad esempio qua il vino non puoi trovarlo al supermercato, dico una scemata, però ci sono dei negozi dello Stato in cui viene rivenduto, mm-hmm. ad esempio. Oppure il clima, chiaro, l'estate dura poco, dura un mese e mezzo, in cui magari può fare anche 30 gradi, ma è caldissimo. E quindi l'inverno è molto più bello qua magari, però se uno e poi i ritmi di vita sono completamente diversi, questa invece è la parte più bella, e ritmi di vita più rilassati, ambienti di lavoro in cui uno non si sente sfruttato ma si sente utile e si sente apprezzato, in cui viene sempre richiesto il proprio parere, in cui la formazione è abbastanza in alto nelle cose desiderate, in cui la famiglia è anche quella veramente al primo posto. Quindi per noi sarebbe stato praticamente impossibile costruire famiglia in Italia. Infatti è un po' il regalo di Natale che avete fatto, forse anche ai vostri amici, questa foto che avete pubblicato nel vostro blog, perché Silvia, cercavate una prospettiva e l'hai trovata, perché c'è una tua bellissima foto col pancione. Sì, adesso c'è un bambino, un maschietto, in arrivo a febbraio, siamo molto contenti, è effettivamente il nostro regalo di Natale, siamo molto contenti che insomma la nostra avventura in Svezia stia continuando e la famiglia si stia ingrandendo qui, perché è stata veramente un'opportunità per noi venire qui, trovare un lavoro stabile, delle buone condizioni per mettere su famiglia, e quindi insomma ci ha dato tanto questa esperienza fino adesso. Sì, infatti, insomma questo è il vostro buon Natale, grazie davvero. Ricordiamo www.onewaytosweden.blogspot.com. Ciao e buone feste. Buon Natale anche a voi. Ciao. Ciao ciao. Europost-it. Magie di ghiaccio e di fuoco sono le attrazioni del Fire and Ice Festival, un grande evento che animerà a gennaio Tallinn, la capitale dell'Estonia, ma anche la città scelta come capitale europea della cultura del 2011. Dal 15 al 31 gennaio si terrà infatti l'11ª edizione di questo festival di fuoco e ghiaccio, adatto a grandi e bambini e totalmente gratuito. Sculture di ghiaccio, giochi di luce, ma anche alberi che, finito il proprio ciclo vitale, vengono bruciati. Un evento dalle forti valenze simboliche e di grande spettacolarità. Per informazioni, tallinnfireandice.ee. L'altra Europa. E il prossimo viaggio ci porta davvero in un'altra Europa, un'Europa piccola, nascosta lassù, davvero nel grande nord. Siamo infatti sulle isole Svalbard che appartengono alla Norvegia, anche se di fatto hanno una sorta di statuto internazionale, e da una ventina d'anni le isole Svalbard sono la casa di un milanese che lì si è trasferito. Le ha scoperte per caso, ci è arrivato, ma è stato amore a prima vista. E prima ci ha passato qualche estate, poi ha tentato anche di superare il primo inverno, e da allora è lì e fa il tour operator e l'accompagnatore turistico. Diamo il benvenuto a Stefano Poli. Ciao Stefano, buon Natale! Ciao, buon Natale anche a voi. Allora Stefano, ti devi collocare. Dove sono e cosa sono queste isole Svalbard? Dunque, le isole Svalbard diciamo che sono a metà strada tra Capo Nord, in Norvegia, quindi sì, l'estremità più a nord della Norvegia, e il Polo Nord. Quindi sono a circa 1000 metri a nord della Norvegia. 1000 chilometri, okay. Ovvio. Ecco, per dare un'idea, adesso sono più o meno un quarto alle 11 e lì c'è luce? No, qui c'è la notte polare e il sole non sorge per 4 mesi di fila, ovvero dal circa 20 di ottobre fino alla metà del mese di febbraio. Cioè, quindi è proprio buio? Sì, buio 24 ore su 24, e diciamo che nella parte centrale di questi 4 mesi non si ha neanche del crepuscolo, e quindi non c'è differenza da mezzogiorno a mezzanotte. Ecco Stefano, e a tutto ciò ci si abitua? Tutto ciò ci si abitua, diciamo che la prima volta non è così semplice abituarsi, però poi superato il primo inverno, uno si abitua, è un po' come un processo naturale anche rispetto all'estate, dove invece c'è sempre luce 24 ore su 24, quindi ci si adegua bene, diciamo. E 2700 abitanti, tu sei l'unico italiano, sei rimasto infatuato di fatto da questa natura, da questi spazi, anche da questo clima, che è un clima rigido che però di fatto attrae. Sì, ovvio che poi l'amore a prima vista poi negli anni si modifica e va anche aggiornato. Certo. A me piace ovviamente ancora abitarci, non farei cambio. Diciamo che la cosa in effetti che più mi affascina è un po' questo contatto obbligatorio con questo tipo di natura molto forte e decisa, il che richiede abbastanza concentrazione e stabilità. Fa anche freddo, al di là del buio è freddo vero? È freddo vero, però non è così freddo secondo me come uno si può immaginare, nel senso che è molto secco, e quindi diciamo che rispetto alle Alpi, dove magari fa freddo uguale però è molto più umido, nel senso che ci sono 20 gradi sotto zero spesso qua, comunque una temperatura che uno trova anche sulle Alpi, però è molto più secco. Il problema però sussiste quando c'è molto vento, perché essendo un posto molto ventoso, ovviamente un forte vento di 50-70 km orari con una temperatura così bassa fa diminuire ovviamente la temperatura effettiva sul corpo umano. Scende anche a 40-50 gradi sotto zero. Ecco, che è già difficile da immaginare. www.poliarctici.com è il sito ufficiale della tua attività. Tu organizzi tour, spedizioni, sei un grande punto di riferimento per chi vuol fare esperienze di turismo riposato ma anche avventuroso sulle isole Svalbard. Però Stefano, una domanda, ti senti fuori dal mondo o comunque hai dei link con il resto del mondo, in particolare il resto d'Europa? Ti senti in Europa o ti senti veramente in uno spazio tutto tuo e lontano da tutto ciò che è altro? Ma ti dirò, non mi sento in Europa, questo no. Sento che è uno spazio mio, però ho comunque dei link lavorativi, di affetti con l'Europa. Periodicamente, a seconda della stagione, a seconda di quanto tempo, seguo anche quello che succede in Italia o in Europa, nel resto del mondo, però diciamo che è un posto dove in effetti sei molto tagliato fuori dal mondo, quindi ti preoccupi molto di più di quello che succede localmente. Ok, una tradizione natalizia delle isole Svalbard? Ma Dunque, la mia è meglio non dire. No, ok, va bene, evitiamo, sì. Perché non ho tradizione. Perfetto. La tradizione natalizia delle isole Svalbard, diciamo, a parte lo standard, che è sicuramente molto simile alla Norvegia, perché la maggior parte degli abitanti sono norvegesi, diciamo la cosa, se vuoi, più caratteristica è quella che, essendoci dei resti di miniere abbandonate, miniere di carbone, sì, vengono accese delle luci su una di queste miniere abbandonate sopra il paese, e si racconta ai bambini che c'è Babbo Natale dentro la miniera, e quindi hanno collocato una piccola casella postale lungo la strada sotto la miniera, dove i bambini mettono le lettere con su l'elenco dei regali che vorrebbero avere, okay, da Babbo Natale, e che appunto si dice, si racconta ai bambini fino a una certa età che Babbo Natale abita in questa, insomma, miniera. Almeno Babbo Natale sta al caldo, ecco, questa è l'unica verità. Ciao Stefano, grazie davvero e buone feste, ti ritroveremo, grazie, sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Certo, grazie altrettanto a voi. Ciao, buon Natale. Ciao, ciao. Europost-it. Aeroporto non stop. Voli cancellati, caos, disagi. La neve quest'anno ha bloccato tutti gli aeroporti europei. Tutti, tranne uno. A detenere il primato di aeroporto che non chiude mai c'è quello di Helsinki. Nonostante il freddo finlandese, infatti, lo scalo della capitale ha chiuso una sola volta negli ultimi 10 anni, nel 2003, e per solo mezz'ora in tutto. E chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa, interamente dedicata al Grande Nord, andando in Finlandia. Con noi è una traduttrice ed interprete dal finlandese all'italiano e viceversa. Si chiama Lena, ma come sempre non oso pronunciare il cognome. Ciao Lena, buon Natale! Ciao, buon Natale a te Federico. Davidsainen Petäjä, a questo cognome lunghissimo, difficile. Come si sta in Italia? Si sta bene, è freddo, sì, ma guarda, non sto a dirlo a te, ecco. Sì, guarda, la Finlandia adesso è un freezer enorme, perché sono 20 gradi sotto zero. E per fortuna le case comunque sono molto, molto ben riscaldate, e quindi si sta benissimo a lume di candela, con tutti questi profumi di Natale intorno, con la musica natalizia, eccetera eccetera. Che vuoi sapere, insomma? Ecco, guarda, abbiamo pochissimo tempo, però quella che è la tradizione che bisogna sapere del Natale finlandese, qual è? Sì, già prima di Natale, per esempio, anche la gente che non è religiosa, diciamo, sì, va in chiesa a cantare i canti di Natale. Noi abbiamo portato la vecchia mamma a cantarli, perché ha un bellissimo soprano ancora, e quindi questa, diciamo, è un buon inizio per l'atmosfera natalizia. Ma poi è soprattutto la vigilia di Natale, sì, con ieri, l'arrivo del Babbo Natale verso sera. E devo dire che anche noi adulti lo aspettiamo ancora. Ho capito. Bene, e poi si mangia alla vigilia di Natale l'antipasto, cioè gli antipasti, molto pesce, salmone, coregone bianco, le uova del coregone con crema acida, con cipolla tritata finemente, poi salmone crudo, affumicato, eccetera eccetera. E naturalmente tutto con le patate, e poi con l'aneto, dill e vari condimenti. E poi si passa al secondo, al famoso prosciutto, cotto per ore al forno. E sono d'accordo con il premier Berlusconi, che diciamo che il vostro prosciutto crudo è insuperabile. Ok, ci siamo un attimo se preparato bene. Ci siamo un attimo preoccupati, prosciutto, perché di solito quando è all'estero fa gaff tutte sue. I contorni poi che mangiamo insieme a questo prosciutto sono tradizionali, vecchi, cioè li facciamo da secoli, e sono molto buoni, particolari. Vari tipi di pasticci di carote, di patate, di rapa svedese. E io qualche volta preparo anche qualcosa con della barbabietola, e da 10 anni faccio anche questo pasticcio molto popolare con le patate dolci, no? Che è molto più saporito. Insomma, i finlandesi che amano i prodotti light, che io personalmente odio, per fortuna diciamo durante a Natale si abbuffano e usano diciamo, prodotti naturali come il burro, molta panna ovviamente, e quindi non diciamo, e poi mangiano anche cose diciamo con più gusto. Lena, ti devo interrompere perché appare che noi ci stiamo avvicinando al pranzo di Natale e quindi con questo aperitivo che ci stai proponendo, poi fra pochissimo ci sarà il Gastronauta con Davide Paolini, quindi abbiamo introdotto queste usanze natalizie dalla Finlandia. Ti ringrazio davvero per averci fatto assaggiare i vostri piatti anche solo radiofonicamente, e buon Natale davvero a te e a tutta la tua famiglia. Ci ritroviamo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Lena, buon Natale. Mi resta di augurarvi a tutti buon Natale. Fate la sauna se potete, come facciamo noi. Ascoltate musica di Natale e poi godete soprattutto, diciamo, della compagnia e della vicinanza dei cari, perché è quello, diciamo, quello è importante. Come si dice buon Natale in finlandese? Si dice hyvää joulua con H-Y, hyvää, me lo puoi ripetere? Guarda, mi fido della tua pronuncia. Ok, hyvää joulua Federico. Grazie. E poi felice anno nuovo, uutta vuotta, hyvää uutta vuotta. E io ricambio, di cuore. Ciao Lena, grazie davvero, ciao. E finisce qui questa puntata particolare dell'Altra Europa. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha preparato la puntata. Un grazie a Valeria alla parte tecnica. Anche da parte loro un grande augurio di buon Natale. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo. Tutti i link relativi agli argomenti di oggi li trovate sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre pagine in Facebook. Ciao!